e un nostro carissimo amico. Ho dovuto pagare anche la villetta del V-Day. E qua ha regalato il CD, com'è possibile questa cosa? Grande differenze di impostazione culturale, etica, morale, non so. Ringraziamo Vito, Grazie. Ma dopo poi magari, per dire quello che vuoi, non so più. Allora, andata a prendersi. Proseguiamo velocemente, così poi passiamo all'amico Pastucci che ti parlerà di signoraggio. Tra l'altro il signoraggio permette il finanziamento delle scie liche. Sappiamo che ogni giorno vengono dilapidati 19 milioni di euro per le lavorazioni in Italia. Al giorno. Poi vanno a risparmiare sulla scuola e l'università. Ok. Allora. Allora, velocemente vi faccio vedere all'assistente il video che è stato un filmato che è stato fatto recentemente, nei giorni scorsi, da un altro attivista, che ha ripreso cadere un filamento, che i famosi filamenti che vengono detti filamenti di ricaduta, che poi hanno la stessa struttura, come dicevo prima, dei filamenti delle fibre che poi sono delle fritte. Vediamo se riesco a spegnere tutte le luci, no? Vediamo un po'. No. Così? Beh, si vede, no? Si vede lo stesso? Non sono padrone di illuminazione, pazienza. Allora, andiamo avanti con questo. Forse l'audio non c'è, vediamo un po'. Vabbè, anche senza audio è comunque. Perché non c'è un audio da solo? Allora, vedete? Passato l'aereo, ecco che comincia a ricadere questa sorta di bambagia. Ufficialmente viene spiegata come tela di ragno di ragni migratori. Purtroppo hanno trovato la spiegazione anche per questo fenomeno. Questi filamenti, come ho detto prima, sono concomitanti con le lavorazioni chimiche e servono come vettore, come veicolo di trasporto, perché altrimenti i metalli pesanti, come altre strutture, tipo, come dicevo, i nanosensori intelligenti, non avrebbero la possibilità di ricadere nelle aree diciamo destinate, ma ricadrebbero subito al suolo. Queste invece hanno la possibilità di essere diffuse dal vento e quindi trasferite in vaste aree del territorio. Subito dopo ci sono una serie di fotogrammi che ha ripreso il nostro amico Vito sulla sua moto, casualmente mentre viaggiava di rientro da un tour lavorativo, ha riscontrato la presenza di un filamento che si era agganciato sulla sua moto, e magari facciamo descrivere a lui cosa è successo. Niente, semplicemente mentre andavo in moto ho notato qualcosa di strano, già che è un tasto quel filamento, se fosse stata una semplice ragnatela, non mi sarei neanche accorto, ho notato come un qualcosa che avevo stato. Dopodiché il caso ha voluto che si bloccasse a livello pulito della moto per un 20-30 cm di sporgente. Quindi c'è questo filamento che non è ragnatela, perché se fosse ragnatela già sarebbe spezzato. Questo filamento qui che è ondeggia sospeso dal vento, quindi a me una ragnatela non sembra. Poi, la stessa giornata, l'8 novembre, non soltanto io, ma sul blog di Scie e Cucinasco.blogspot.com, un'altra persona che vive più o meno nella stessa zona mia ha riscontrato una simile risaduta di questi filamenti. è un biologo, io questo biologo ha fatto anche delle analisi sul suo blog, anche se non in modo molto approfondito perché non ha l'apprezzatura idonea, però ha già tratto delle sue considerazioni. Questi filamenti sono stati a suo tempo analizzati dal dottor Patera, che avete visto nel filmato all'inizio di Spazio Indaco, è un biologo, anche lui, ha potuto confermare gli studi che erano stati fatti da scienziati statunitensi, tra i quali appunto, come dicevo, il dottor Michael Castle, e questi filamenti non hanno al loro interno la benché minima traccia di proteine, quindi non sono filamenti di tipo naturale, non sono di origine naturale. Noi li abbiamo anche verificati al microscopio, adesso vedo di trovarveli al volo, vediamo un po', non riesco a essere cose aperte, vediamo se riesco, dunque, intanto volevo far vedere le etichette dell'acqua, cioè che mi trovo, allora vedete, qui abbiamo per esempio, dunque, sopra abbiamo bario, vedete? Bario, vedete? A destra. Oppure per esempio in questa etichetta abbiamo elementi presenti in tracce, fluoro, bario, stronzio, litio, ferro, alluminio. Tra l'altro il distributore di quest'acqua il giorno dopo è venuto a visitarci, a visitare il nostro sito è estremamente preoccupato dopo l'articolo che avevamo scritto sulla presenza di questi inquinanti nelle acque. Adesso vediamo se ritrovo al volo le documenti. Ecco, per esempio, ecco, qua si nota un filamento depositato intorno a un picco, questa foto è della nostra Duca Antonio, vedete? Questa è la condizione dei filamenti, come si possono vedere, allo stato così naturale, e poi se, ecco qua, dunque, ecco, povero pianto, ecco, questa è la tela di un ragno, vedete? Dentro ho lasciato volutamente due rami di insetto. Ci sono diversi ingrandimenti al microscopio che ho scelto per. Questa è la conformazione al microscopio di una tela di ragno. Tenetela bene a mente. Adesso andiamo sulle tele di ricaduta. Questo è l'aspetto delle tele di ricaduta. Ingrandimento sempre 200 per. Vedete? Che hanno, intanto al loro interno si muovono, vedete? All'interno del microscopio sono elettrostatiche, reagiscono alla luce ultravioletta, come diceva anche il biologo di cui parlava un attimo fa il dito, e vedete, questa è la struttura filamentosa, come se fosse della lana, di questi filamenti che ad un'osservazione così superficiale esterna possono sembrare filamenti dovuti a tele di ragno, ma nella struttura microscopica sono completamente diversi. E poi appunto è stato verificato anche da un altro biologo, del quale adesso non faccio il nome perché mi ha pregato di non fare più il suo nome, in quanto è stato attaccato ripetutamente dai disinformatori che hanno tentato di screditarlo. Un altro biologo ha confermato proprio delle fibre di ricaduta di Venezia gli stessi accertamenti che avevano fatto i ricercatori indipendenti negli Stati Uniti, quali appunto la dottoressa Michael Caso, il dottor e anche il senatore degli Stati Uniti, la dottoressa Lidia Gander-Sanger e il dottor Michael Caso, ma ce ne sono anche altri. Queste fibre sono di natura nanotecnologica. Ovviamente danneggiano le piante, ma vengono anche ispirate dall'organismo umano e quindi questo si è piantato, volevo chiudere. Adesso vi faccio vedere, così poi terminiamo in bellezza. Vediamo un po'. Adesso passate un secondo che sto trasferendo dei dati e la macchina a quel punto era occupata. Sì, ok, velocemente. Allora, finiamo con questo. E con questo filmato chiudiamo la conferenza. Vediamo un po' se ce la facciamo. Quali sono le malattie che si possono correlare alle scelte? È noto che le chemtrails contengono elementi chimici e biologici dannosi. È quindi possibile collegare il massiccio spargimento di vari veleni nell'ambiente sia all'insorgenza di nuove patologie sia all'incremento di malattie un tempo meno diffuse. Una sindrome causata dalle scie chimiche è il Morgellons, un terribile morbo che si manifesta con fibre di materiali sintetici che fuoriescono dalla pelle. Questi filamenti, contenuti nelle scie chimiche, al loro interno ospitano nanostrumenti in grado di replicare il DNA di insetti, virus, parassiti con cui vengono a contatto. Ecco perché la malattia insorge di solito in seguito alla puntura di un insetto. Il Morgellons, caratterizzato da un prurito insopportabile, provoca un grave deperimento dell'organismo. La connessione tra scie chimiche e Morgellons è stata curata da vari medici, tra cui la dottoressa Elvira Stanker, il dottor Michael Cattle, il dottor Ella Spencer, il dottor Kahn. Experiencing the same injury, a brain fog of sorts, problems concentrating, the feeling of bugs crawling on and biting the skin, and painful itchy sores that produce mysterious red and blue fibers and black specks. Some have even reported finding parasites in their sores. Another next of the bugs that people see first are springtails. Gathered all the information and ran to it with the doctors who refused to even look at it. This is what people are pointing out of themselves, and the doctors are telling them that they're crazy. Poiché con le chemtrails sono sparsi i vari metalli, l'alluminio, il bario, il piombo, eccetera, si diffondono sempre più malattie come il Parkinson e l'Alzheimer. La causa del Parkinson è probabilmente da ricercarsi nell'accumulo di metalli nel cefalo. Anche il Parkinson, sebbene se ne sospetti in origine genetica, è legato presumibilmente all'accumulo di metalli nel cervello. Il bario è un veleno che attacca soprattutto i muscoli, cuore compreso. Può essere all'origine di ictus, a loro volta legati alla fibrillazione atriale e all'infarto miocardico. Molte forme tumorali, ad esempio i linfomi, sono connesse all'uranio e all'etilene di bromide. Quest'ultimo è un insetticida ufficialmente bandito negli Stati Uniti. Se assorbito dall'organismo, può causare danni al sistema nervoso, edemi polmonari e sintomi quali dispnea, ansia, affanno, tosse. È molto irritante per le mucose e le vie respiratorie. Il dottor Donald Scott ritiene che la fibromialgia, l'Alzheimer, la sclerosi multipla, l'encefalomielite mialgica o sindrome da affaticamento cronico, insieme con altre affezioni neurosistemiche, siano la conseguenza dell'aggressione del micoplasma, un batterio che è stato geneticamente modificato in vari laboratori canadesi e statunitensi e quindi sperimentato sulle popolazioni inconsapevoli. I micoplasmi sono stati e vengono sparsi, ricorda Scott, soprattutto con gli aerei. Lo studioso Tom Montag ha individuato nelle chemtrails vari batteri, lo Pseudomonas euroginosa, Enterobacteri e la Serratia mercetia. Lo Pseudomonas euroginosa è un batterio che è stato modificato geneticamente da aziende come la Pathogenesis. Se inalato può provocare immunodepressione e danni alle cellule in cui si insedia come ospite. Gli enterobatteri sono microorganismi comprendenti l'enterobatterio coli, la salmonella e la klebsiella, responsabile della polmonite. La Serratia marcescens è un patogeno molto pericoloso che determina l'insorgenza della polmonite. Questo batterio, come emerge da documenti declassificati, fu sperimentato nel 1950 sulla popolazione, ovviamente inconsapevole, di San Francisco. Causò vari decessi. Un altro capitolo è costituito dalle patologie causate dalle intense e costanti emissioni elettromagnetiche inquadrabili in un piano di potenziamento delle trasmissioni a fini militari. Il professor Lewis elenca le principali sintomatologie connesse all'irradiazione di onde elettromagnetiche. Queste si possono riassumere nei seguenti problemi. Sintomi cutanei. pruriti, eritemi, allergie, del sistema nervoso, disturbi del sonno, ansia, cefalee, emicranie, sindromi depressive, del sistema muscolare, crampi, dolori muscolari, astenia, del sistema cardiovascolare, aritmie, disturbi della pressione arteriosa, ictus, del sistema ormonale e di quello immunitario, riduzione della sintesi della melatonina, alterazione delle popolazioni linfocitarie, del sistema riproduttivo, aborti spontanei, del sistema acustico, sinniti, visivo, olfattivo, digestivo. L'esposizione alle radiazioni non ionizzanti è reputata da molti scienziati all'origine di neoplasie, soprattutto le leucemie. Okay. Bene. Grazie ancora a tutti voi per la partecipazione attiva a questa conferenza che spero produrre dei frutti buoni, nel senso che ognuno di voi si darà da fare per far conoscere ad altri lo stesso problema. La documentazione la potete trovare principalmente sul blog, sul nostro blog www.tankerenemy.com. Digitate anche semplicemente Tanker Enemy e trovate il blog. E qualsiasi altra informazione potete ottenere se scrivete al nostro indirizzo email, nel limite del tempo potremo rispondere a tutti. Io ringrazio la direzione per e anche gli amici che hanno permesso tutto questo. Grazie ancora e buona serata a tutti. Scusate, prima di passare io sanno la sua danza qui per sistemare le sue congiunte o altre cose, volevo fare una domanda, cioè, siccome qui dopo ci sarà una cena, volevo sapere l'organizzazione, volevo sapere chi si tratterà per questo. Appunto, la cena è un piatto di pasta con le verdure, poi ci sarà una stella di aperite con insalata e verdure, dolce e caffè, il tutto a 12 euro. Chi fosse interessato alzi la mano e siamo qua insieme, insomma, ecco, vi conto un attimo. Vediamo una ventina di persone. Sì. No, io